C. Ascolta e completa il testo. Questa riserva è nata per proteggere animali che erano diffusi lungo l'intero Appennino centro-meridionale e che costituiscono specie geneticamente autonome rispetto a quelle europee. Fra questi animali troviamo l'orso bruno marsicano. È il simbolo del parco e negli anni passati ha rischiato l'estinzione. Di quest'orso, nel 1950, c'erano solo 30 esemplari. Questo parco è una riserva preziosa di flora rara e locale. Ci sono vaste zone di boschi di querce, faggi, aceri, pini e varie specie arbustive. Qui il giaggiolo marsicano, il fiore più bello e vistoso dell'Appennino centrale, suscita l'interesse dei visitatori.